Il terzo anello, ad alta voce. Paolo Bonacelli legge I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, traduzione di Marisa Zini. Un giorno, roso da una noia mortale, senza speranza nei negoziati con la città, senza notizie dall'Inghilterra, il cardinale era uscito privo di meta, accompagnato soltanto da Cahusac e dalla Houdinière. Cavalcando al trotto lungo la riva e mescolando l'immensità dei suoi sogni all'immensità dell'oceano, egli giunse sulla sommità di una collina dall'alto della quale scorse dietro una siepe, sdraiati sulla sabbia, a godere l'apparizione di uno di quei raggi di sole così rari in quella stagione dell'anno, 7 uomini attorniati da bottiglie vuote. 4 di questi erano i nostri moschettieri che si apprestavano ad ascoltare la lettura di una lettera appena giunta a uno di loro. La lettera era così importante che essi avevano abbandonato su un tamburo carte e dadi. Gli altri 3 stavano scappucciando un'enorme damigiana di vino di Collioure. Erano i domestici di quei signori. Si pensi come dopo tale scoperta aumentasse in sua eminenza il desiderio di sentire la conversazione. I suoi occhi presero una strana espressione e con passo felino egli si accostò alla siepe, ma aveva potuto cogliere solo alcune sillabe vaghe e senza significato concreto, quando un grido sonoro e breve lo fece sobbalzare e attrasse l'attenzione dei moschettieri. «Ufficiale!» gridò Grimaud. «Mi pare che parliate, birbante!» disse Athos, sollevandosi su un gomito e ipnotizzando Grimaud con il suo sguardo fiammeggiante. Grimaud, infatti, non aggiunse parola, accontentandosi di tendere il dito indicatore in direzione della siepe e denunciando con tale gesto il cardinale e la sua scorta. Come un solo uomo, i 4 scattarono in piedi e salutarono rispettosamente. Il cardinale sembrava furioso. «A quanto pare», disse, «i signori moschettieri usano farsi sorvegliare dalle sentinelle. Forse l'inglese viene per via di terra? Vostra Eminenza può constatare che se non avessimo preso questa precauzione rischiavamo di lasciarla passare senza porgerle i nostri omaggi e presentarle i nostri ringraziamenti per il favore che ci ha fatto di riunirci. D'Artagnan», continuò Athos, «voi che poco fa desideravate l'occasione di esprimere la vostra gratitudine a Monsignore, ecco la giunta. Approfittatene». Tali parole furono pronunziate con la flemma imperturbabile che distingueva Athos nelle ore del pericolo e con quella cortesia eccezionale che in certi momenti faceva di lui un re più maestoso degli autentici re. D'Artagnan si avvicinò e balbettò poche parole di ringraziamento che si smorzarono quasi subito sotto lo sguardo cupo del cardinale. «Se siamo tanto fortunati da poter avere qualche ordine speciale da vostra Eminenza», continuò Athos, corrugando le ciglia, «siamo pronti a obbedirle. Monsignore vede che per essere pronti al minimo allarme siamo usciti armati». E additò al cardinale i 4 moschetti in fascio vicino al tamburo sul quale erano le carte e i dadi. «Vostra Eminenza si degni di credere», soggiunse D'Artagnan, «che le saremmo venuti incontro se avessimo potuto supporre che era lei ad avvicinarsi in compagnia così ridotta». Il cardinale si mordeva i baffi e anche un po' le labbra. «Sapete che cosa sembrate, sempre assieme come adesso, armati come siete e guardati dai domestici?» disse il cardinale. «Sembrate 4 cospiratori». Il rossore salì al volto di Athos, che mosse un passo verso Sua Eminenza. «Si direbbe che ci sospettiate davvero, Monsignore, e che stiamo subendo un autentico interrogatorio. Se è così, Vostra Eminenza si degni di spiegarsi, e noi almeno sapremo a che attenerci». «E quand'anche questo fosse un interrogatorio», ribatté il cardinale, «ben altri che voi ne hanno subiti, Monsieur Athos, e hanno risposto. Difatti, Monsignore, Ho detto a vostra eminenza che non aveva che da interrogarci e che eravamo pronti a rispondere. Che lettera era quella che stavate per leggere, Sir Aramis, e che avete nascosta? La lettera di una donna, monsignore. Ah, capisco, disse il cardinale. Bisogna essere discreti con lettere di tal sorta. Su via, disse il cardinale. Voi siete bravi giovanotti, superbi alla luce del sole, fedeli nelle tenebre. Non c'è nulla di male a vigilare su se stessi quando si vigila così bene sugli altri. Signori, non ho dimenticato la notte che mi serviste di scorta per andare al Colombier Rouge. Se ci fosse qualche pericolo da temere sulla strada che devo seguire, vi pregherei di accompagnarmi, ma siccome non ce n'è, restate dove siete. Finite le vostre bottiglie e la vostra lettera. Addio, signori. E mentre risaliva sul cavallo che Cahusac gli aveva condotto fin lì, salutò con la mano e si allontanò. I quattro giovani, ritti e immobili, lo seguirono con gli occhi senza aprire bocca finché disparve. Poi si guardarono. Tutti avevano una faccia costernata, perché nonostante l'amichevole saluto di Sua Eminenza, capivano che il cardinale se ne andava con la rabbia nel cuore. «Avreste consegnato la lettera, Aramis?» disse D'Artagnan. «Io?» rispose Aramis con la sua voce più flautata. «Ero deciso. Se avesse preteso la consegna della lettera, gliel'avrei presentata con una mano e con l'altra l'avrei infilzato da parte a parte. Me l'aspettavo», disse Athos. «Ecco perché mi sono frapposto fra voi e lui. In verità quell'uomo è alquanto imprudente a parlare così ad altri uomini. Si direbbe che non ha mai avuto a che fare se non con donne e bambini, caro Athos. Vi ammiro. Però noi eravamo in torto, dopo tutto. Come in torto?» ribatte Athos. «A chi appartiene quest'aria che respiriamo? A chi quest'oceano sul quale si stendono i nostri sguardi? A chi questa sabbia sulla quale eravamo sdraiati? A chi questa lettera della vostra amante? Forse al cardinale? Sul mio onore quell'uomo si immagina che il mondo gli appartenga. Ve ne stavate lì, balbettante, sbalordito, annichilito. Si sarebbe detto che la Bastiglia vi si rizzasse dinanzi e che la gigantesca Medusa vi tramutasse in pietra. Su via, essere innamorato equivale a cospirare. Siete innamorato di una donna che il cardinale ha fatto imprigionare. Volete strappargliela dalle mani. State giocando una partita con Sua Eminenza. Questa lettera è la vostra carta. Perché mostrarla al vostro avversario? Questo non si fa. La indovini lui, la carta, perbacco. Non indoviniamo noi la sua? In realtà, disse D'Artagnan, ciò che dite è molto sensato, Athos. Non si parli più dell'accaduto. E Aramis ripigli la lettera di sua cugina al punto in cui il cardinale l'ha interrotto. Aramis trasse di tasca la lettera. Mio caro cugino, credo proprio che mi deciderò a partire per Béthune, dove mia sorella ha fatto entrare la nostra domestica nel convento delle Carmelitane. La povera ragazza si è rassegnata. Sa che non può vivere altrove senza che la salvezza della sua anima sia in pericolo. Nell'attesa non è del tutto infelice. Tutto quel che desidera è una lettera del suo innamorato. So che derrate simili passano difficilmente attraverso le grate, ma dopo tutto, come ve ne ho già dato prova, caro cugino, non sono poi tanto maldestra e mi incaricherò di tale commissione. Mia sorella vi ringrazia del vostro buono e continuo ricordo. Addio, caro cugino. Dateci vostre notizie il più sovente possibile, ossia ogni volta che crederete di poterlo fare senza pericolo. Vi abbraccio. Marie Michon. «Cosa non vi debbo, Aramis?» esclamò D'Artagnan. cara Constance, finalmente ho sue notizie. Ella vive, è al sicuro in un convento, è a Béthune. Dove si trova Béthune, Athos? Tra l'Artois e la Fiandra. Una volta tolto l'assedio, potremo andare a fare un giro da quelle parti. Torniamo a Milady, che abbiamo perduto di vista un momento per gettare lo sguardo sulle coste francesi. La ritroveremo nell'atteggiamento disperato in cui l'avevamo lasciata, sprofondata in un abisso di cupe riflessioni, cupo inferno alla porta del quale ella aveva abbandonato quasi totalmente la speranza. Perché per la prima volta ella dubita, per la prima volta ella teme. In due occasioni la fortuna non l'ha assistita, in due occasioni ella si è vista smascherata e tradita, e in queste due occasioni è stata sconfitta dal genio fatale che, fuor d'ogni dubbio, il Signore ha inviato per combatterla. D'Artagnan l'ha vinta, lei, invincibile potenza del male. Egli l'ha ingannata nel suo amore, umiliata nel suo orgoglio, frustrata nella sua ambizione, e adesso ecco che le fa perdere la ricchezza e le toglie la libertà, minacciandone quasi la vita. Quel che è peggio, ha sollevato un lembo della sua maschera, lo scudo di cui ella si copre e che la rende così forte. D'Artagnan ha stornato da Buckingham, che la odia, come odia tutto ciò che ha amato, la tempesta di cui Richelieu lo minacciava nella persona della regina. D'Artagnan si è fatto passare per De Wardes, per il quale ella provava uno di quei capricci irrefrenabili da belva quali provano le donne della sua natura. D'Artagnan conosce il terribile segreto che nessuno, ella lo ha giurato, dovrà conoscere senza morire. Infine, nel momento in cui ha ottenuto un mandato in bianco, grazie al quale si vendicherà del suo nemico, il mandato le viene strappato di mano. Ed è D'Artagnan che la tiene prigioniera e la manderà in qualche immonda Botany Bay, in qualche infame Tyburn dell'Oceano Indiano. Perché tutto questo senza dubbio è opera di D'Artagnan. Da chi se non da lui proverrebbero tante vergogne addensate sul suo capo? Lui solo ha potuto trasmettere a Lord de Winter gli orrendi segreti che ha scoperto, gli uni dopo gli altri, quasi per una fatalità. Conosce il suo cognato, gli avrà scritto. Quanto odio ella distilla. E là, immobile, e gli occhi ardenti e fissi nella stanza solitaria, e i sordi ruggiti che a tratti le sfuggono insieme al respiro dal profondo petto, ben si accordano al fragore dell'onda che sale, rumoreggia, mugghia e viene a infrangersi come una disperazione eterna e impotente contro le rocce sulle quali si innalza quel castello tetro e superbo. Alla luce dei lampi che la sua collera tempestosa le fa balenare nella mente quali magnifici piani di vendetta perduti nelle lontananze del futuro, e la concepisce contro Madame Bonacieux, contro Buckingham e soprattutto contro D'Artagnan. Erano circa le 8 di sera. Milady scorse un letto. Pensò che un riposo di alcune ore avrebbe ridato freschezza non solo alla mente e alle idee, ma anche alla sua cera. Tuttavia, prima di coricarsi, le venne un'idea migliore. Aveva sentito parlare di cena. Si trovava già da un'ora in quella stanza, certo non potevano tardare a portargliela. La prigioniera non volle perdere tempo e decise di fare quella sera stessa qualche tentativo per sondare il terreno, studiando l'indole di coloro a cui era affidata la sua custodia. Una luce trapelò sotto la porta. Annunziava il ritorno dei carcerieri. Milady, che si era alzata, si ributtò in fretta sulla poltrona, la testa riversa all'indietro, con i bei capelli sciolti e sparsi, il seno seminudo sotto i merletti gualciti, una mano sul cuore e l'altra penzoloni. Vennero tirati i chiavistelli e la porta stridette sui cardini. Nella camera risuonarono e si avvicinarono dei passi. «Mettete lì quel tavolo», disse una voce che la prigioniera riconobbe per quella di Felton. «Bene, bene», aggiunse, «dorme, al suo risveglio cenerà», e fece qualche passo per uscire. «Ma, signor luogotenente», osservò un soldato meno stoico del suo capo e che si era avvicinato a Milady, «questa donna non dorme». «Come non dorme?» disse Felton. «Che fa, allora?» «È svenuta. Il suo viso è pallidissimo e per quanto io faccia attenzione non la sento respirare». «Avete ragione», assentì Felton, dopo aver guardato Milady di dove si trovava, senza fare un passo verso di lei. «Andate ad avvertire Lord de Winter che la sua prigioniera è svenuta, perché non so che fare, dato il caso imprevisto». Il soldato uscì per obbedire agli ordini del superiore. Felton sedette su una poltrona che si trovava per caso vicino alla porta e aspettò senza dire una parola, senza fare un gesto. Milady possedeva l'arte somma, tanto studiata dalle donne, di vedere attraverso le lunghe ciglia senza che le palpebre apparissero sollevate. Scorse Felton che le voltava le spalle, continuò a guardarlo per circa 10 minuti e durante quei 10 minuti l'impassibile guardiano non si girò neppure una volta. Pensò allora che Lord Winter stava per giungere e con la sua presenza avrebbe infuso nuova energia al carceriere. La prima prova era fallita, ella ne prese atto da donna che conosce i propri mezzi. Di conseguenza alzò il capo, aprì gli occhi e sospirò flebilmente. A quel sospiro finalmente Felton si voltò. «Ah, eccovi sveglia, signora», disse. «Allora non ho più nulla da fare qui. Se avete bisogno di qualche cosa, chiamate». «Oh, mio Dio, quanto ho sofferto!» mormorò Milady con la sua voce armoniosa che, simile a quella delle sirene antiche, affascinava tutti coloro di cui voleva la rovina. E, sollevandosi nella poltrona, prese una posa ancora più aggraziata e languida di quella che aveva quando era sdraiata. Felton si alzò. «Sarete servita a questo modo 3 volte al giorno, signora», disse. «La mattina alle 9, all'1 dopo mezzogiorno e alle 8 di sera. Se non vi aggrada, potete indicare le ore che preferite invece di queste che vi propongo, e su questo punto ci conformeremo ai vostri desideri». Felton fece un breve inchino e si diresse verso la porta. Nel momento in cui stava per attraversare la soglia, Lord de Winter apparve nel corridoio, seguito dal soldato che gli aveva portato la notizia dello svenimento di Milady. Teneva in mano una boccetta di sali. «Ebbene, che c'è? Che cosa succede qui?» disse con voce beffarda, vedendo la prigioniera in piedi e Felton sul punto di uscire. «La morta è già resuscitata? Per Dio, Felton, non hai capito che ti si prendeva per un novellino e che ti si stava recitando il primo atto di una commedia, di cui avremo certo il piacere di seguire tutti gli sviluppi?» «L'ho pensato, milord», disse Felton. «Ma dopo tutto, siccome la prigioniera è donna, ho voluto usarle quei riguardi che qualsiasi uomo ben nato deve a una donna, se non per lei, almeno per se stesso». Milady rabbrividì tutta. Le parole di Felton ne scorrevano come ghiaccio per tutta le vene. Paolo Bonacelli ha letto I 3 moschettieri di Alexandre Dumas, riduzione di Lorenzo Pavolini, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it.